Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre insieme al presidente Carlo Garofolini per trattare un altro argomento, come dicevamo questa settimana, sempre legato all'automobile. Ben trovato Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti. Parliamo di multe, una delle novità introdotte in questi giorni estivi, difficili dal governo, difficili per il governo perché è sempre in equilibrio instabile. Le multe hanno alcune novità, cioè si può pagare la multa con lo sconto. Qualcuno avrà già sentito questa notizia, ne parliamo anche con voi. Di quant'è questo sconto, Carlo? Infatti, giusto per corredare la notizia, ti do conferma che in queste ore gli uffici comunali sono stati presi d'assalto dagli automobilisti per pagare le multe rispetto a prima, che magari molti invece preferivano una strada del ricorso. Allora, per entrare nell'argomento, nella dare risposta alla tua domanda, con questo importante provvedimento emanato dal governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa, da oggi, ma già da ieri, l'altro ieri, perché dal lunedì esattamente, è possibile pagare le multe con uno sconto del 30% se queste vengono pagate entro 5 giorni dalla notifica. Beh, 30% non è poco, insomma, è più o meno come i saldi estivi in alcuni casi. Ovviamente un terzo della multa è uno sconto significativo, che però, se uno decide di approfittarne, comporta delle conseguenze, chiaramente. Sì, diciamo che con questo provvedimento il governo ha pensato bene di dare una mano ai comuni ad avere un'entrata, possiamo dire, certa rispetto a quelli che erano i tempi di una giustizia che molti automobilisti si appellavano per non pagare la multa, perché sappiamo benissimo che le multe oggi sono un fattore che quasi ciascuno di noi deve mettere in conto quando usa l'auto, e certamente avendo una buona percentuale degli automobilisti tenta di fare ricorso al giudice di pace per non pagarla o per salvarsi i punti, con questa procedura si vuole snellire un pochino quelli che sono gli intasamenti dei tribunali, ma soprattutto si vuole dare modo, con questo chiamiamolo tra virgolette incentivo, gli automobilisti a non contestare e quindi a pagarla. E ricordiamo a tutti gli ascoltatori che nel momento dell'arrotondamento al 30% bisogna veramente stare attenti a non cadere negli errori per sorta di arrotondamenti in difetto rispetto a un arrotondamento in eccesso, ma soprattutto di non tener conto nell'importo complessivo il costo della sanzione che viene scorporata con la tua parte. Dunque, sempre attenzione quindi a arrotondare in eccesso piuttosto che in difetto, altrimenti poi ci vengono chiesti anche gli interessi su magari pochi centesimi che non abbiamo pagato. Questo è stato detto, viene fatto anche per recuperare non solo le multe che magari vengono pagate in ritardo dopo i ricorsi, ma le multe che non vengono pagate, perché c'è anche, Carlo, una quota significativa di multe di evasione anche da questo punto di vista. Sappiamo certamente che in questo momento di crisi le persone non hanno più soldi, e questo flagello che si devono continuare a subire per effetto di questa anche politica selvaggia, che non ha niente a che fare con la deterrenza perpetuata dal comune a danno degli automobilisti semplicemente come unico scopo di far cassa, ha come significato quello che hai detto tu di avere un'entrata certa in tempi rapidi. Certamente, come hai detto tu, il 30% di sconto è un importo che deve essere considerato con molta attenzione quando si decide di arrotondarlo, e soprattutto gli ascoltatori devono cambiare, che comunque nulla è cambiato rispetto a prima anche in termini di ricorso, perché i tempi rimangono sempre 30 giorni davanti al giudice, 60 davanti al prefetto, ma che una volta pagata comunque non si può più fare ricorso, quindi rimane su tutta il palco che c'era prima, c'è solo questa opportunità, ecco, nel caso che le persone vogliono valutarla se pagarla perché meritatamente multati o meno, di aggiungere uno sconto rispetto all'importo notificato. Altra novità su cui credo però molte amministrazioni pubbliche e polizie municipali si stiano ancora attrezzando è quella della possibilità del pagamento immediato, il famoso concilia o non concilia, utilizzando non i contanti evidentemente, ma il POS. Sì, anche questa sarebbe una importante novità che permette certamente ai cittadini una maggiore semplificazione di quella che è una modalità di pagamento ormai sempre più in uso e certamente anche quanto riguarda il caso in cui si trova una multa notificata nel paraprezza, bisogna sempre ricordarci che abbiamo la possibilità di risparmiare i costi della notifica andando e recandoci presso il comando dei vigili, altrimenti se dobbiamo aspettare la notifica a casa della multa fa come data quella della posta sul timbro della busta del postino. Altra cosa da chiarire è per quali tipi di infrazione si può applicare lo sconto, per tutte quante oppure ci sono violazioni che non la prevedono? Complessivamente un po' su tutte, tranne quelle più importanti come quella per esempio per il ritiro della patente per abuso d'alcol o di sostanze stupefacenti o nel caso anche in cui una persona sia recidiva. Nel complesso possiamo dire che in grandi linee un po' tutti quanti ci possono stare dentro in questo provvedimento. Anche perché facendo un conto in questi circa 6 minuti in cui noi abbiamo conversato, nella media in Italia sono state elevate 100 multe, quindi pronti a pagare queste 100 multe magari con lo sconto del 30% entro i primi 5 giorni dalla notifica, come abbiamo appena ricordato. Grazie all'ADICO, Associazione Difesa Consumatore, il presidente Carlo Garofolini, ci ritroviamo la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.